Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Termovalorizzatori, caffè al termine, alcuni parchi eolici nel territorio di Vicari, opere connesse alla velocizzazione della linea ferroviaria Agrigento-Palermo, nonché uno stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici. E poi ancora il mercato della frutta, i videopoker. L'elenco del procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, è lungo e fa quasi impressione. Lungo come la lista degli appalti che Cosa Nostra era riuscita a controllare. Nel silenzio di una settimana piena di tante emergenze, nel Nessino un'inchiesta smaschera gli affari di storiche famiglie mafiose e potrebbe invertire le sorti di uno dei feudi più difficili da espugnare, perché quando si arriva così in profondità, è la previsione del procuratore, è probabile ci siano nuovi boss che saltano il fosso, come quelli che hanno fatto partire questa inchiesta grande vallone sfociata in 28 arresti. Le loro idee camminano con le nostre gambe, quindi... E nella direzione di un cambiamento va il numero crescente di pentiti in questa roccaforte mafiosa, ma anche il vento nuovo che ha portato negli ultimi tempi sempre più persone a scendere in strada, come qui non era mai successo prima. Oggi abbiamo la possibilità e non dobbiamo tirarci indietro. È partita proprio da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, prima di tutto Maurizio Rigati, Ciro Vara, ma potrei farne un elenco importante di recenti collaboratori come Pietro Riggio, Carmelo Barbieri, Inteso Professori e tanti altri che ci hanno degli importanti spunti. Procuratore, il delegato di Confindustria per la legalità, Antonello Montante, auspica che vengano fuori nuovi collaboratori di giustizia in modo da rendere più efficace la battaglia sulla legalità. Come commenta queste parole? Il dottor Montante parla perché conosce bene questa realtà e sa che in altre occasioni sono state operazioni come ad esempio l'Atlantide Mercurio nei confronti della famiglia Manoia, che ha consentito di acquisire collaborazioni importanti come quella di Carmelo Barbieri. Diciamo che quando si incide così profondamente nel tessuto mafioso è possibile, anzi direi che è probabile, che qualcosa del genere possa verificarsi, e ciò naturalmente aprirebbe ulteriori spazi per approfondire le indagini. C'è tutto un aspetto che riguarda anche le connivenze all'interno della pubblica amministrazione, tutta una serie di filoni di indagini che ancora possono essere approfonditi, ma per quelli occorre la gola profonda. Una gola profonda per trovare chi all'interno dei pubblici uffici aiuti la rete mafiosa ad espandersi, nutrendosi di grossi appalti. Staremo a vedere se la crepa aperta nel fortino nisseno continui ad allargarsi. Nel frattempo, però, continua spesso a succedere che la polvere viene nascosta sotto al tappeto, dice il procuratore Lari. Sarebbe interessante fare riferimento alle dichiarazioni che ha reso Antonino Giuffrè sul tema dell'interesse di Cosa Nostra rispetto al settore degli appalti pubblici, no? Se volessimo sintetizzare per gli ascoltatori qual è l'evoluzione, potremmo dire che in qualche misura Cosa Nostra ha superato quella fase del cosiddetto tavolino in cui si sedevano allo stesso tavolo imprenditori, uomini politici e mafiosi per stabilire come le opere pubbliche dovessero essere ripartite, anche su input di Bernardo Provenzano, che ha elaborato la cosiddetta strategia dell'inabissamento dopo la stagione delle stragi. Cosa Nostra ha preferito adottare un diverso sistema di inserimento nell'economia, interviene sui soggetti che si sono aggiudicati l'appalto attraverso l'imposizione del pizzo, ma soprattutto attraverso l'imposizione delle commesse, delle forniture e dell'assunzione di manodopera. L'impresa che se magari si è legittimamente aggiudicata l'appalto viene, diciamo così, espropriata. Però, quindi successivamente. Ah. Però se invece l'impresa mafiosa partecipa direttamente attraverso prestanome evidentemente alla gara d'appalto, non rinuncia quando può a cercare di inserirsi col metodo dell'intimidazione, della violenza o comunque con la ricerca di connivenza, anche con la corruzione, all'interno delle amministrazioni appaltanti, al fine di fare in modo che l'appalto possa andare direttamente all'impresa mafiosa. Questa però è un'opzione che potremmo definire B. L'opzione A è quella, diciamo, più grave, che non c'è opera pubblica sul territorio siciliano dalle nostre indagini che non sia condizionata dall'intervento dell'organizzazione mafiosa. Mi sembra di capire che nella gran quantità di opere pubbliche, sì, che in qualche modo vedono queste famiglie del Nisseno e dell'Agrigentino, diciamo, infiltrate, la più rilevante sia da un punto di vista economico ma forse anche per la funzione stessa che essa svolge è quella del termovalorizzatore. Non c'è dubbio. Si sa che le mafie per il business dei rifiuti hanno una sensibilità particolare, come per tutti i grandi affari. fare, ma in questo caso con le costruzioni dei termovalorizzatori, che si sa anche quanto siano necessari, contrastati, cioè si portano dietro tutta una serie di altre problematiche, è per voi diciamo una novità oppure c'erano stati degli altri casi in cui... Dal nostro punto di vista l'unico termovalorizzatore sul territorio limitrofo al nostro era questo di qua di Castel Termini, e su questo vengono le dichiarazioni di Ligati Maurizio, perché formalmente, sia pure essendo al confine tra Castel Termini e Campofranco, ricade sul territorio di Agrigento, ma questo poco importa, perché quando ci sono grosse opere pubbliche di queste dimensioni gli interessi di Cosa Nostra si spargono su tutto il territorio a prescindere dalla divisione in province che noi conosciamo. Certo, della geografia mafiosa. Davanti a tutto questo quadro che lei ci ha fatto e guardando anche, e questo chiaramente è una riflessione rivolta anche alla mia categoria, quello che in questi giorni è uscito o non uscito anche dalla singola operazione, mi verrebbe da chiederle, parlare di mafia non è più di moda? Certo, la domanda è suggestiva, diciamo così, ma non è così. Il problema è che la mafia ha capito che il prendere di petto lo Stato con lo stragismo, con gli omicidi, non è conveniente. È un bel po' che non si parla di mafia, per questo le chiedo se secondo lei non sia più di moda. Le forze dell'ordine e la magistratura hanno ottenuto notevoli successi e spesso la politica tende a far proprio questi successi come se fosse un merito proprio. In realtà il fenomeno della mafia è un fenomeno ancora grave, forse siccome ci sono troppi problemi che affliggono la nostra società c'è la tendenza a coprire diciamo col tappeto la cosiddetta polvere, no? Anche se nascosta, la polvere resta su quel pavimento, eppure dopo anni alla fine viene sempre fuori, basta spostare un po' il tappeto. Così è successo ad esempio quando sono cominciate le inchieste sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, i contatti cioè tra i boss e chi stava dall'altra parte dopo la stagione delle stragi. Inchieste ancora aperte che con i loro misteri e segreti ruotano soprattutto intorno al tritolo di Via D'Amelio, quello che uccise Paolo Borsellino e la sua scorta. E mentre le indagini vanno avanti, nel dibattito politico irrompe l'ombra di nuove avance da parte dei boss, la dissociazione in cambio di contropartite. Tra il 2003 e il 2004 questo avrebbero offerto all'ex guardasigilli Roberto Castelli, uomini di Cosa Nostra di prima grandezza, stando a quanto lui stesso rivela in una conferenza stampa, aggiungendo di non averne parlato con nessuno nel governo, d'accordo però con alti magistrati. Nulla di tutto questo però risulta al procuratore Lari, impegnato direttamente proprio sull'inchiesta sulla trattativa intorno alla strage di Via D'Amelio, inchiesta anticipa a storiacce che potrebbe essere chiusa prima dell'estate. Mi risulta che c'è stata un'epoca storica quando Vigna era procuratore nazionale antimafia in cui alcuni esponenti mafiosi, a cominciare da tutti da Salvatore Biondino, Braccio Destro di Rina, stavano cercando di ottenere attraverso le loro... quella che loro chiamavano desistenza, cioè smettere di commettere reati, dei riconoscimenti da parte dello Stato. Ma allora giustamente lo Stato non accettò mai di intavolare una trattativa del genere, sarebbe stato pugnalare alla schiena i parenti di tutte quelle migliaia di vittime dei reati di mafia che avevano visto i loro cari uccisi in maniera atroce. Cosa Nostra ha sperato di poter intavolare una trattativa sul tema della dissociazione, ma lo Stato per fortuna è stato deciso. Io ricordo, ero procuratore aggiunto col procuratore Grasso alla procura di Palermo e stilammo un documento che mandammo all'allora procuratore nazionale di Vigna in cui stigmatizzammo ogni ipotesi di trattativa anche ai fini di una semplice dissociazione. Il mio punto di vista e il punto di vista allora dell'intera procura di Palermo fu che se un mafioso vuole smettere di mafiare non deve dissociarsi ma deve decidere di collaborare con la giustizia assumendosi tutte le responsabilità e gli oneri che dalla collaborazione discendono. Lo Stato non può accettare, se no di essere ricattato. Certo, ecco, ma quello di cui parla lei non coincide con il 2003-2004 di cui parla l'ex ministro, o mi sbaglio? No, siamo nel 2000 circa, 99-2000. Quindi di questa, diciamo così, offerta di una possibile trattativa successiva 2003-2004 a lei non risulta? No, non mi risulta. Visto che lei si occupa dell'inchiesta sulla trattativa, una rivelazione di questo tipo doveva venire a farla voi? Ma Probabilmente sì, comunque rimane il fatto che io mi occupo della trattativa, soprattutto con riferimento all'eziologia tra la trattativa e la strage di Capaci e Via D'Amelio, principalmente quella di Via D'Amelio, perché nell'ambito delle indagini che noi stiamo svolgendo riteniamo che una delle ragioni per cui Totò Riina ha deciso di accelerare l'esecuzione della strage era collegato all'esito e allo svolgimento della trattativa e che evidentemente non era visto da Riina come favorevole all'organizzazione mafiosa. Certo, ci sono anche degli altri filoni. Da questo punto di vista anche la fase immediatamente successiva della trattativa per noi è di interesse processuale, nella misura in cui vi è la dimostrazione che questa trattativa ha avuto un inizio e poi proseguita anche dopo, e che la strage di Via D'Amelio è stata una tappa importante nell'iter della trattativa, in cui Cosa Nostra ha fatto valere ancora una volta la sua potenza intimidatrice di fuoco. L'ex ministro ha detto che all'epoca ne aveva parlato anche con dei magistrati, cioè una rivelazione di questo tipo oggi, secondo lei, appunto, andava fatta da chi in questo momento si occupa delle inchieste che ci sono sulla trattativa, anche perché, anche se sono filoni diversi, però c'è comunque raccordo tra di voi. Indubbiamente io sono molto sorpreso da questa notizia e sono anche un po' sconcertato dal fatto che attraverso i mass media si venga a sapere una cosa del genere. Prima di dare una valutazione vorrei sapere gli esatti termini in cui l'ex ministro si è espresso. Lui dice che appunto rifiutò questa sorta di trattativa e che disse di no da solo, ma non in assoluta solitudine, sono sue parole, perché vi era l'accordo con importantissimi magistrati dell'epoca. E questo ha detto l'ex ministro Castelli. Ministro Castelli, sì. Dice che appunto quando si trovava al vertice del Ministero di Grazia e Giustizia nel 2003, rifiutò questa sorta di trattativa e dice che aveva rispedito al mittente delle avance fatte da boss di prima grandezza. Ma a questo punto lui ha l'obbligo di andare dinanzi alla competente autorità giudiziaria e dire chi sono questi boss, come è stato contattato, chi lo ha contattato e come mai di questa vicenda non sia stata informata l'autorità giudiziaria dell'epoca. Voi, per esempio, in autonomia potreste decidere di convocarlo sulla base di queste notizie? Ma su questo non mi esprimo, perché non dovrei valutare i profili di competenza. Tempo fa ne avevamo parlato anche insieme, ci aveva preannunciato una chiusura non così lontana dell'inchiesta sulla trattativa. Noi stiamo accelerando i tempi più possibile, del resto le indagini, per la loro complessità e importanza, non tollerano lacune investigative di sorta. Noi comunque ci auguriamo prima dell'estate di finire, però a questo punto è un augurio che io esprimo. Certo, e forse anche per la delicatezza e l'importanza degli argomenti, anche questo tipo di argomenti forse andrebbero trattati nelle sedi opportune, non nelle conferenze stampa politiche. Non c'è dubbio, su questo concordo pienamente con lei. Ma nonostante tutta la polvere rimasta sui vecchi pavimenti di una delle stagioni più buie della storia nostrana, quando lo Stato rischiò davvero di soccombere sotto il tritolo dei boss, in questi anni, anche nei fortini più chiusi di Cosa Nostra, il vento è cambiato. In 3 anni ci sono stati infatti molti nuovi collaboratori e la gente è scesa in strada, anche a Caltanissetta, contro la mafia. E sono sempre più spesso giovani e sono il volto di un'epoca nuova, forse, anche nelle fortezze più difficili da espugnare. Scriveteci allora e aiutateci anche voi a raccontarlo. Ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Per riascoltare e scaricare invece questa puntata di Storiacce, come tutte le altre, www.radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra. A sabato.